Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio. Le vacanze 2009 saranno marchiate a fuoco come le vacanze della crisi o le cose andranno meno peggio di come le abbiamo dipinte fino ad ora? Abbiamo già capito che, pur con tutte le eccezioni da considerare, le ferie degli italiani, e cioè quei giorni che si trascorreranno fuori di casa, saranno più brevi e più corte anche in termini di distanza. Fra le mete più gettonate ci sono la Grecia, la Turchia, la Tunisia. Per chi sceglie o è costretto a rimanere in Italia perché la meta straniera è troppo impegnativa dal punto di vista finanziario, sta scegliendo le spiagge, ma pare che si andrà un po' più del solito alla scoperta delle città d'arte, sono tantissime nel nostro paese, o della montagna italiana. Queste sono comunque le informazioni che ovviamente troviamo un po' su tutti i giornali, sono delle evidenze piuttosto vaghe. Cosa dicono gli operatori del turismo? Se una famiglia si presenta in agenzia e chiede vogliamo stare via una settimana ma ci si è ristretto il budget, ci fa una bella proposta in termini economici anche di destinazione dove possiamo andare? Allora stamattina magari ci potremmo sbizzarrire un po' a chiedere un pacchetto vacanze ai nostri interlocutori che abbiamo scelto per Salva Danaio, e saranno Matteo Montebelli del Centro Studi del Touring Club Italiano, che è già collegato telefonicamente con noi. Montebelli, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno e grazie. Fra un po' ci collegheremo anche con Carlo Pileri, presidente dell'ADO, che è un'associazione dei consumatori. Ovviamente non ci possiamo far mancare un'associazione dei consumatori a Salva Danaio, ma in realtà stamattina poi l'abbiamo interpellata anche per un altro motivo. E poi saluto Carlo Pessot, direttore commerciale di volagratis.it. Pessot, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto anche lei a Salva Danaio. Ovviamente vorremmo sentire anche voi. Raccontateci come vi state organizzando, che budget avete previsto per le vostre vacanze, la vostra meta è una scelta fatta con convinzione perché è la meta alla quale avete pensato per tutto l'anno, nonostante non abbiamo fatto altro che parlare di crisi, oppure siete stati, come dire, costretti a scegliere anche una destinazione diversa dalle vostre intenzioni iniziali, una meta di ripiego, anche se poi insomma andare in vacanza e magari avere l'opportunità di trascorrerla comunque fuori dalla nostra città abituale può essere considerata anche tutt'altro che un ripiego. Allora, vi dicevo perché non ci siamo fatti mancare anche questa mattina l'Associazione dei Consumatori, perché quando il movimento dei turisti, come in questo periodo, si accentua particolarmente, problemi e disservizi sono all'agguato, come quelli che stanno capitando in queste ore ai passeggeri dei voli Myer. Si tratta di una compagnia low cost vicentina, è protagonista di un dissesto finanziario che peraltro è al centro anche di un'indagine da parte della Procura di Vicenza, ma proprio per questo ieri l'ENAC ha revocato alla compagnia l'autorizzazione a volare, e adesso rimangono a bocca asciutta centinaia di passeggeri che avevano prenotato il volo con questo vettore. Per alcuni di questi le situazioni si stanno sistemando tra oggi, domani e dopodomani, perché ci sono le cosiddette procedure di riprotezione che sono scattate grazie a Meridiana e dall'Italia, e adesso ne parleremo. Ma c'è magari qualcuno che doveva partire fra qualche settimana e adesso non sa bene cosa fare, a chi si deve rivolgere, può recuperare quanto ha speso se la compagnia non recupera la piena operatività? Allora stamattina ovviamente faremo un punto anche su questo. Vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per interagire con noi questa mattina, non solo per parlare di Myer, se siete incappati anche nella disavventura con Myer ce la potete naturalmente anche raccontare, ma per parlare più in termini generali delle vacanze 2009. Dove andate? Quanto potete permettervi di spendere quest'anno? Quanto avete scelto di spendere? 349-238-6666 invece il numero per i vostri messaggi. Diamo rapidamente un'occhiata alla borsa, che stamattina è leggermente negativa. Però è negativa dopo 7 sedute consecutive di rialzo per i listini europei. Ieri Wall Street è stata un po' più incerta, infatti ha chiuso negativamente sul Dow Jones. Il Nasdaq è stato positivo perché alcune società del settore tecnologico stanno presentando delle trimestrali piuttosto buone, ancora il mercato sta brindando ai dati di 2 giorni fa di Apple. Vediamo però l'Europa, dicevo, Parigi meno 0,35, Francoforte meno 0,05, Londra meno 0,23, FTSE MIB, Piazza Affari meno 0,32%, i migliori titoli in questo momento Saipem più 2,76, Ansaldo più 2,49, Pirelli più 2,49, 2,42. Finmeccanica più 1,86, rialzo di un punto per Impregilo più 0,8 per la Popolare di Milano. STM perde quasi 3 punti, è il peggior titolo in questo momento. Atlantia meno 1,73, Telecom meno 1,62, Mediaset meno 1,45, Prismian meno 1,38, meno un punto anche per Alleanza Generali Italcementi e per Fiat dopo i dati di ieri. Euro su dollaro 1,42,23 il rapporto di cambio, il petrolio risale la china, in genere quando uno risale la china, come dire, è un'accezione da considerare in termini positivi, in questo caso non lo è per il petrolio perché già il prezzo ai distributori si sta adeguando rapidamente a questa nuova fiammata e speriamo si fermi qua, visto che molti stanno partendo in questi giorni proprio per le vacanze e stanno facendo dei pieni un po' più pesanti dal punto di vista economico di qualche giorno fa. Però noi oggi non partiamo dalla benzina, magari ne parleremo nei prossimi giorni. Prima di sentire, come facciamo sempre, la nostra scheda di apertura del programma, oggi appunto dedicato ai nostri viaggi di quest'anno, vorrei in realtà focalizzare l'attenzione con Carlo Pileri, che nel frattempo ci ha raggiunto, presidente dell'ADOC. Presidente, bentornato a Salvadanaio. Grazie, buongiorno. Vi dicevo, volevo affrontare per qualche minuto anche la questione di Maier, la compagnia low cost vicentina, per la quale l'ENAC ha deciso ieri la sospensione della licenza. C'erano già stati gravi disservizi negli ultimi giorni, 172 marocchini lasciati a terra a Bergamo, se non mi ricordo male, tornati a casa grazie alla compagnia aerea del loro paese, e poi ieri invece la decisione appunto dell'ENAC di bloccare completamente l'operatività. C'è un'inchiesta della Procura di Vicenza che riguarda questa compagnia, c'è anche una parte penale di questa inchiesta per reati tributari. A noi adesso non interessa commentare quello che sta accadendo al gruppo, ci interessa invece capire cosa succede a quelle centinaia di passeggeri che intanto negli ultimi due giorni hanno avuto problemi, è accaduto in particolar modo negli scali di Olbia e Cagliari a causa della cancellazione dei voli della società, e per questi passeggeri è intervenuta Meridiana. Per altri invece che avevano già acquistato un biglietto per un volo Maier, c'è stata un'iniziativa di Alitalia che ha attivato tariffe agevolate per chi rimarrà a terra a seguito della cancellazione dei voli della compagnia nei giorni 23, 24 e 25 luglio. Poi vi spiegheremo le procedure, però Carlo Pileri, presidente dell'ADOC, in vacanza può sicuramente capitare che una compagnia cancelli un volo e che ovviamente magari qualche passeggero rimanga a bocca asciutta per tipologie di disservizio che possono essere di varia natura. Qui stiamo parlando di una vicenda completamente diversa. Che suggerimento diamo al malcapitato che in queste ore si ritrova in mano un biglietto di Maier? Ma intanto purtroppo ogni anno abbiamo qualche compagnia che salta, anche lo scorso anno capitò per compagnie che per fortuna non operavano sul nostro territorio, però che causarono problemi a vacanzieri che si trovavano all'estero e che dovevano rientrare nel loro paese. Quando ci sono questi casi ci sta un regolamento comunitario che prevede che nel caso di cancellazione del volo il passeggero, per qualunque causa che non sia dovuta a circostanze eccezionali, il passeggero ha diritto di scegliere o la protezione, ossia di viaggiare con un altro aereo che viene messo a disposizione dalla compagnia che non può effettuare il volo, o a ottenere il rimborso totale del biglietto senza penali, ed è previsto pure un rimborso a compensazione del danno subito, che è di circa 250 euro per le tratte fino a 1500 km, aumenta per le tratte superiori. Quindi si può chiedere alla Maier il rimborso del biglietto e la compensazione. Nel caso in cui ci siano problemi nell'ottenerlo, ci si può rivolgere a un avvocato o un'associazione dei consumatori come l'ADOC, che potrà fornire assistenza perché venga garantito questo diritto che è del viaggiatore. Anche perché, tra l'altro, adesso ovviamente senza contestare, perché per fortuna che questi meccanismi ci sono, ma anche la procedura di riprotezione nel caso che abbiamo fatto poco fa, quello che ha attivato Meridiana, ma anche quello che ha attivato Alitalia, è una riprotezione per modo di dire, perché Alitalia per esempio ha attivato una tariffa agevolata per chi rimane a piedi, nel senso che propone il pagamento comunque di un altro biglietto, non è che si sostituisce completamente alla compagnia che non lo può onorare questo impegno. Sì, ma è una responsabilità della compagnia Maier, perché la compagnia Maier doveva provvedere alla riprotezione e quindi se aveva incassato soldi, utilizzare i soldi incassati per pagare l'Italia o la Meridiana o altra compagnia per la riprotezione. Se questo non viene fatto, evidentemente non è neanche un caso di riprotezione vero e proprio. Infatti, è una disponibilità di compagnie concorrenti che dicono: bene, per chi si è trovato a terra gli offriamo un prezzo favorevole. E quindi vale sempre il discorso che bisogna rivalersi sulla Maier per ottenere il rimborso del prezzo ed eventualmente anche quello pagato all'Italia o chi altra compagnia per ottenere poi il passaggio. Tra l'altro potrebbe anche essere ristabilita l'operatività, la piena operatività nei prossimi giorni, e questo magari va detto a coloro che non sono partiti in questi giorni, non hanno biglietti per partire in questi giorni, ma hanno dei biglietti Maier per partire magari in agosto, nelle prossime settimane. E qua ovviamente scatta un po' di preoccupazione, magari qualcuno per questo motivo rischia di far saltare la sua vacanza. Volevo sentire su questo anche Carlo Pessot, dicevo direttore commerciale di volagratis.it, che è una delle società del gruppo più ampio. Spero di riuscire a ricostruire, Pessot, correttamente, come dire, la vostra scala gerarchica, chiamiamola così, del gruppo Viaggiare, che è una società a sua volta del gruppo Bravo Fly, per cui anche attraverso di voi sono transitate molte prenotazioni verso questa compagnia aerea. Qual è la situazione del vostro punto di vista? Sì, esattamente. In realtà noi abbiamo al momento qualcosa come 3.000 passeggeri che devono partire da qui ai prossimi, diciamo, alle prossime date. La situazione è questa: al momento stiamo vedendo un po' cosa succede, nel senso che tendenzialmente noi vediamo di fare tutti gli interessi dei nostri clienti nei confronti delle compagnie aeree, che sono, come diceva appunto l'intervento precedente, sono tenute a rimborsare, a riproteggere i passeggeri, però poi non siamo sicuri mai che questo avvenga, soprattutto se la compagnia è oggetto di un dissesto finanziario, per cui c'è sempre l'incognita, soprattutto in questi casi in cui c'è la necessità di partire per le vacanze e la gente non sa cosa succederà. Quello che facciamo noi tendenzialmente, ed è stato fatto anche recentemente nei mesi passati, quando all'inizio anno è successo un caso simile con la compagnia Airb, che era una compagnia aerea low cost che volava tra Brescia e Salerno e che appunto ha bloccato, a un certo punto sospeso i voli. Noi siamo riusciti, essendo comunque un motore di ricerca molto importante, con dei volumi molto importanti, siamo riusciti con la compagnia a farci rimborsare totalmente tutte le prenotazioni dei nostri passeggeri, e noi a nostra volta abbiamo rimborsato i nostri clienti. Quindi in questo caso riuscirete per esempio a mettere in piedi un programma di protezione simile? Allora, dipende, perché dipende da cosa succede con la compagnia aerea. L'abbiamo fatto con Airb, è successo anche con Alp Eagles a fine 2008. Dipende cosa succede con la compagnia aerea, ecco, perché se il dissesto finanziario è così importante da non poter arrivare a garantire i rimborsi e noi non riusciamo a ottenerli per i nostri passeggeri, chiaramente a quel punto c'è un problema. Quindi bisogna verificare intanto cosa sceglierà di fare la Procura di Vicenza, come si evolverà anche proprio l'inchiesta, come matureranno, cosa succederà nei prossimi giorni. Quindi insomma mi pare di capire che anche voi, Pessot, navigate a vista, aspettate sì, ancora io qualche giorno. Sentito, diciamo che ho sentito i vertici dell'azienda più volte in questi giorni. Loro si stanno facendo di tutto, perché chiaramente la compagnia aerea fa di tutto per cercare di mantenere l'operatività, perché comunque ogni giorno di fermo peggiora la situazione. Vogliono riprendere a volare, vogliono riprendere l'operatività per poter poi garantire ai passeggeri di raggiungere le destinazioni, di fare i loro voli, però chiaramente questo dipende da tutta una serie di cose, è intervenuta anche l'ENAC, ci sono vari problemi, insomma. Allora, tra l'altro, le faccio sentire anche una domanda di un ascoltatore, la faccio sentire anche a Pileri, tanto così per dare anche un criterio generale di orientamento a chi ha biglietti Maier in questo momento in suo possesso e rischia che questi diventino carta straccia. Riccardo da Bergamo, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno. Salve, ci dica. Io ho questa questi biglietti insomma per l'inizio di agosto, e volevo sapere un po' cosa mi consigliate di fare, se acquistare altri biglietti per poter andare in vacanza, se attendere, volevo sapere un po'. Riccardo, allora come ha avuto modo di sentire, il programma di riprotezione è scattato intanto per coloro che stanno partendo in questi giorni, che devono partire, naturalmente si trovano in mano questi biglietti inutilizzabili perché la compagnia è ferma. Pileri, vogliamo rifare un po' un punto della situazione, ribadisco, per chi deve partire fra qualche settimana, che era un po' la situazione di fronte alla quale ci eravamo trovati, adesso non è la stessa cosa, quando è scoppiata l'emergenza dell'influenza suina. Adesso ovviamente l'influenza sta continuando a mantenere il suo trend di crescita, però non appena scoppiate molti ci chiedevano: io ho dei biglietti per andare dall'altra parte dell'oceano, per esempio negli Stati Uniti, non so che cosa farmene perché non so che cosa partire. Qua ribadisco, una situazione completamente diversa, perché la compagnia potrebbe anche veder ripristinata la sua operatività. Però per chi non è molto sicuro di questo, Pileri, che cosa fa? Secondo lei cosa ci fa con questi biglietti, Riccardo, adesso? Ma io credo che dipende anche dall'esigenza del turista, del soggetto, nel senso, se io non ho problemi, se Riccardo non ha problemi nell'aspettare perché può organizzare le sue vacanze anche all'ultimo minuto, ma può anche attendere che si abbia qualche notizia ulteriore e che possa essere ridata il permesso alla Meyer di operare. Se invece c'è la necessità, perché magari si è una famiglia, si deve partire con degli amici e ci sono degli impegni che non possono essere modificati, io credo che sarebbe opportuno chiedere il rimborso ed il risarcimento previsto dalle norme per quanto riguarda il biglietto che non viene utilizzato, e trovare altre compagnie che operano su quella tratta per poter avere la garanzia di poter viaggiare. Quindi dipende anche molto dal tipo di turismo a cui ci si rivolge. Certo. Allora, io lascerei per adesso il caso di Meyer, lo continueremo a monitorare. Salvadanaio è in diretta ancora per tutta la prossima settimana, e qualora la situazione dovesse diventare ancora più preoccupante di queste ore, ovviamente non mancheremo di darvi tutte le indicazioni su come potervi comportare per non perdere il vostro denaro, e soprattutto magari per non perdere la vostra vacanza qualora fosse rigorosamente agganciata a questo volo e non troviate un'alternativa, anche perché chiaramente in agosto poi trovarla è anche piuttosto complicato, i prezzi esplodono, magari era un volo, proprio essendo una compagnia low cost, è anche piuttosto conveniente, per cui continueremo a seguirla molto attentamente. Il tema di oggi però era la vacanza, in termini generali. La stampa qualche giorno fa titolava: si è ristretta la vacanza degli italiani, c'è un forte allarme da parte degli albergatori per quest'annata di crisi, le cifre sono molto preoccupanti, ma noi vorremmo sentire soprattutto le vostre esperienze. Prima di sentire la nostra scheda, perché Peter mi sta chiedendo, insomma, oggi la mandi o no, sentiamo subito una testimonianza di un ascoltatore che è Davide dalla provincia di Treviso, che saluto. Buongiorno, buongiorno Davide. Buongiorno a voi tutti i ascoltatori. Niente, io volevo portare la mia testimonianza, che sono 30 anni che vado in vacanza e ho sempre organizzato la vacanza secondo la tasca, qualche volta in albergo, ma la maggior parte affittando una casa sul posto. Ad esempio, io mi trovo qui in una splendida località marina in provincia di Catanzaro, Soverato. Sì. Okay, quindi lei non è a Treviso, è già andato, no, se la sta già godendo. Perché vado in ferie a luglio, e voglio dire che con 1000 euro io ho affittato un appartamento per un mese. Un mese, qua si porta tutta la famiglia, Davide? Sì. Ho portato la mia famiglia, ad esempio io ci sto le ultime 2 settimane, in precedenza c'è stato mio figlio che è andato in ferie 2 settimane, quindi praticamente uno con 1000 euro ha una casa un mese a disposizione, un mare meraviglioso, certo. E con 400 euro di volo vai e vieni da Treviso. Ma questa è stata una scelta, Davide, condizionata dalla... dalla crisi, però in genere io sono 30 anni che mi organizzo in questo modo, prima in albergo, ma perché adesso è proibitivo, perché gli alberghi costano. Però praticamente affittando un appartamento presso una signora, eccetera, si riesce ci si muove con un po' di anticipo, Davide, insomma si cerca, anche perché quest'anno questa tendenza era abbastanza annunciata, non è che ci coglie poi di sorpresa la parola crisi sul turismo. Davide, la ringrazio per i suoi suggerimenti. A Catanzaro si goda il mare, si goda la sua vacanza, scientificamente scelta quest'anno anche per problemi di budget. E volevo sentire anche Matteo Montebelli, il Centro Studi del Touring Club Italiano. ovviamente le chiedo subito, la nostra scheda Peter la mandiamo nella seconda parte, non ti preoccupare, se sarà quest'anno un po' sulla scia dell'esperienza anche del nostro ascoltatore che è andato a Catanzaro, l'anno della riscoperta del nostro paese, o è davvero il problema economico che alimenterà questa tendenza? Cosa ne pensa, visto che il Touring Club è proprio su questo punta? Sì, in realtà che ci sia la crisi e che il turismo ne soffra è ormai evidente, e tra l'altro è già dalla fine del 2008 che i segnali della crisi sono evidenti. Ora, che cosa c'è da dire? Che questa diminuzione dei flussi turistici, delle presenze, è imputabile appunto al fattore più generale della crisi. Purtroppo, ed è la cosa che ci preoccupa un po' di più, l'Italia negli ultimi anni, a partire dalla metà degli anni 2000, ha cominciato a soffrire di una stagnazione dei flussi turistici. Quindi diciamo che questo risultato meno che noi abbiamo visto dal 2008 e che vediamo anche nei primi mesi del 2009 è imputabile sia a una congiuntura economica che è sotto gli occhi di tutti e che ha colpito anche Francia e Spagna, che sono i nostri due competitor, quindi è una crisi che si fa sentire anche oltre i confini nazionali. L'aspetto su cui io punterei l'attenzione è il fatto che da noi le avvisaglie di una crisi del settore turistico al di là della congiuntura economica erano già presenti prima, quindi questo dovrebbe farci riflettere ulteriormente. Ecco. Senta, ma no, adesso devo dare la linea al giornale radio, poi naturalmente ci darà lei, così come ce lo darà anche Pessot, un quadro sulle mete prescelte quest'anno, che tipo di budget vi risulta che le famiglie italiane stiano spendendo, che località stanno scegliendo e soprattutto anche dove si fermano per la vacanza, l'albergo, il campeggio, la roulotte, l'appartamento, insomma qual è anche il quadro che ci potete dare da questo punto di vista. Allora, eccoci di nuovo in diretta sul tema delle vacanze questa mattina. Il budget messo a disposizione per le ferie da parte delle famiglie italiane, abbiamo un dato medio rispetto a quello dello scorso anno, è diminuito drasticamente in questo 2009, 710 euro pro capite contro gli 861 dello scorso anno. Sono anche diminuiti i giorni, non ci sono più le classiche due settimane, ma una cifra oscillante fra i 10 e i 12 giorni. Se si somma la contrazione di giorni di vacanza di quest'anno con quella dell'anno scorso, le vacanze degli italiani si sono ristrette di un terzo. Questi sono dati che erano stati diffusi settimana scorsa da Confturismo con un certo allarme, e anche allora noi, partendo anche da questi, stiamo esplorando un po' le intenzioni delle famiglie italiane di quest'anno. Dove andrete? Avete rinunciato magari alla meta a cui avevate pensato per tutto l'anno, proprio perché il budget vi ha imposto una scelta diversa, e quindi così vi abbiamo chiesto anche un po' di collaborazione per fare eventualmente anche un pacchetto, così suggerirlo a qualche ascoltatore che magari proprio un po' anche con un po' di malumore, perché quest'anno i soldi sono un po' meno, non sa che cosa scegliere. Invece magari le opportunità ci sono, basta solamente con un po' di pazienza mettersi lì a cercare. Allora, noi eravamo rimasti però ancora qualche strascico del caso Maier, con il quale abbiamo aperto la nostra trasmissione, e c'erano alcune precisazioni che Carlo Pessot, direttore commerciale di volagratis.it, voleva farci. Però Pessot, le metto insieme anche una domanda di un ascoltatore, Mario da Bergamo, che ha prenotato un viaggio con voi e voleva avere qualche informazione. Mario, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti quanti voi. Chiamavo perché in pratica circa un mese fa ho prenotato un volo Catania-Bergamo-Catania con il motore di ricerca Volare Gratis. Ho ricevuto la conferma di prenotazione, ma non ho ancora ricevuto i dettagli del volo via mail. Il dubbio che avevo è che la compagnia con cui ho prenotato questo volo è la compagnia Astraeus, per me sconosciuta. Non è frequente che si conosca questa compagnia. Ecco, ora, siccome la tratta Bergamo-Catania di solito viene svolta dalla compagnia MyAid, volevo un consiglio da voi. Non so se questa compagnia prestasse l'aereo alla MyAid, quindi mi sono dovuto intervenire per avere maggiori informazioni. Ha fatto bene, Mario. Quando deve partire? Grazie. Quando deve partire, Mario? Ecco, il volo è per il 12 agosto. Benissimo. Allora, Pessot, da che cosa vuole partire? Dalle precisazioni che voleva fare su Maier, o rispondiamo direttamente a Mario? Ma rispondiamo direttamente all'ascoltatore. Allora, la compagnia che ha citato l'ascoltatore è una compagnia che noi utilizziamo per voli in offerta speciale, per cui voli particolarmente convenienti. Normalmente nella conferma di prenotazione diciamo, contenuto già tutto il dettaglio del volo, bisogna capire bene che cosa manca all'ascoltatore. Diciamo, all'ascoltatore che può sentire il nostro servizio clienti, comunque, oppure dopo semmai. Oppure magari lo richiamiamo noi, sì, d'accordo, esatto, quindi forse è bene avere un po' più di chiarezza rispetto a tutta la documentazione che Mario già in mano, e magari, cioè, lei mi sta dicendo, Pessot, che magari non lo vede ben scritto, ma magari tutte le condizioni del viaggio che lui chiedeva. Diciamo, sì, normalmente noi quando si riceve la conferma si riceve già tutto, per cui gli orari, il terminal, eventuali, le condizioni, i termini e condizioni, le informazioni necessarie anche per eventuali cambi volo e tutti i contatti. Perfetto. Con il nostro customer care. Allora poi magari tutto, vi mettiamo in contatto dopo. Molto volentieri, la ringrazio. Senta, invece voleva precisare qualcosa sui charter? Sì. E Myer, sì. Perché in realtà Myer, molti clienti, lo dico perché probabilmente potrebbero esserci ascoltatori in linea che stanno preoccupandosi perché hanno dei voli, magari acquistato dei voli charter all'interno di pacchetti o anche semplicemente solo volo, operati da compagnia Myer. In questo caso invece la situazione è molto, diciamo molto, è sicuramente migliore, perché normalmente il tour operator che ha composto il pacchetto oppure che propone il solo volo, si occupa lui della riprotezione dei passeggeri. Noi stessi ad esempio offriamo molti voli su Ibiza, Lampedusa, Pantelleria con Myer, però sono voli fondamentalmente charter, e questi clienti non avranno problemi perché il tour operator che ci fornisce i voli ci ha garantito già la riprotezione di tutti i passeggeri. Quindi in ogni caso, sempre chiamando il vostro servizio clienti Pessot, possiamo avere informazioni anche sulla natura del nostro volo, dunque, mi pare di capire. Se vuole possiamo, esatto, anche dare in diretta, avete un numero verde? Abbiamo un numero 892040, che è un numero, diciamo, di assistenza diretta che risponde 24 ore su 24 tutti, benissimo, i giorni. Benissimo. Allora noi intanto continuiamo un po' ad esplorare invece le intenzioni di viaggio di quest'anno delle nostre famiglie, dei nostri ascoltatori all'ascolto. 800240024, c'è un bellissimo commento di Rosa che dice: salve, io devo fare le vacanze da sola e rinuncio perché spendo il 40% in più. È vero, più si parte numerosi e meno si spende. Anche questa è una discriminazione di fronte alla quale non ci stiamo, Rosa, io dico anche come donna a cui piace anche farsi qualche viaggio, insomma, in solitudine ogni tanto, magari non molto lunghi, ma perché no? E però è vero, si spende di più. Volevo rispondere poi ad un'altra ascoltatrice, non c'entra niente, sui viaggi di stamattina. Giovanna da Imperia si lamenta perché non facciamo gli ETF come previsto su Plus, perché l'abbiamo spostata domani, Giovanna, per cui stia tranquilla, i suoi ETF li trattiamo domani a Salvadanaio. Allora, Matteo Montebelli, Touring Club, ritorno a lei. Abbiamo parlato prima in termini generali della questione crisi del turismo in termini generali, poi focalizzandoci un po' invece sulla questione italiana, che lamenta questo problema da un po' più anni per tutta una serie di problematiche. Però le chiedo un po' dal vostro osservatorio quali sono le mete prescelte di quest'anno, se sono proprio all'insegna di un budget sempre più stretto o è comunque una vacanza dignitosa quello che fanno gli italiani, perché non ci dimentichiamo che già avere l'opportunità di passare una settimana fuori casa è già una fortuna, perché qualcuno non si può permettere neanche quella. Certo. No, direi che le vacanze saranno sicuramente dignitose. Teniamo conto che molto probabilmente la quota di italiani che andrà in vacanza non sarà così dissimile dalla quota che è andata in vacanza nel 2008. Quindi gli italiani andranno in vacanza e le variazioni saranno minime. Cambierà il modo di fare vacanza, quindi è questo il punto che caratterizzerà probabilmente l'estate. Un primo elemento di scelta, di opzione, diciamo così, anticrisi, potrà essere la distanza della destinazione. Quindi è vero che molto probabilmente l'estate 2009 sarà all'insegna dell'Italia. Non dimentichiamoci che comunque gli italiani storicamente hanno sempre preferito il loro paese per le vacanze estive. Quindi probabilmente quest'anno avremo un'acutizzazione del fenomeno del turismo in Italia e di destinazioni, diciamo così, di medio raggio che si possono affrontare per esempio in macchina con i familiari, quindi in qualche modo riuscendo a risparmiare qualcosa anche in termini di spostamento. L'altro elemento... Ma il touring ha osservato per esempio una tendenza piuttosto chiara in questi termini? C'è qualche città che quest'anno viene particolarmente privilegiata e che negli anni passati magari non lo è mai stata? Allora, diciamo che più che città stiamo parlando di destinazioni complessive, mm-hmm. la Riviera Romagnola non in questo senso, pur avendo avuto un rallentamento nel mese di giugno anche a causa del maltempo, sembra comunque una delle destinazioni preferite, anche perché notoriamente propone un livello di costi generalmente accessibile. La Puglia, che conosce ormai da qualche tempo una certa notorietà anche per una notevole disponibilità di seconde case, case in affitto, quindi l'altro aspetto importante per provare a fare un po' un identikit della vacanza 2009 potrebbe essere quella di scegliere, oltre al classico hotel, che comunque è la scelta privilegiata, un classico hotel 3 stelle, mm-hmm. non di più, le case in affitto o le case di parenti e amici, quindi tutti i fenomeni, diciamo così, di ritorno al paese di origine oppure di andare presso parenti e amici potrebbe essere una buona occasione per fare turismo a un prezzo, diciamo così, più contenuto. Più contenuto. Allora, volevo sentire anche Marco da Bari, che lamenta un po' invece quello che è, nonostante la crisi, in questo frangente il comportamento degli albergatori. Poi ovviamente Marco non sia particolarmente cattivo, perché non li abbiamo questa mattina, quindi non possiamo farli commentare rispetto al suo di commento. Prima però un altro commento che invece voglio leggere al 349-238-666 di un ascoltatore, che dice: la faccenda Maier riguarderà qualche decina di persone, non ne fate un caso che non esiste. Io le dico solamente, come ha avuto modo di dirci Carlo Pessot, che solo su volagratis.it ci sono almeno 3.000 prenotazioni di voli con questa compagnia, e qui parliamo di un solo sito, si figuri tutto il resto, per cui non parliamo proprio di una faccenda che riguarda 10 persone ma qualche migliaio di persone, e siccome hanno tutti il diritto di non perdere il loro denaro, anche fossero solo 10, noi parleremo di loro 10. Marco da Bari, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Ci dica. Io stavo ascoltando la radio in macchina e mi sono fermato, ho deciso di chiamarvi proprio appena ho sentito crisi degli albergatori. E mi è venuto spontaneo chiamarvi e raccontarmi un aneddoto, una piccola esperienza proprio in merito, secondo me, a un serpente che si mangia la coda. Perché per quanto mi riguarda, io sono di Bari e, come diceva l'ospite in sede, la Puglia è così tanto bella e così tanto ospitale, auguro a tutti di poter venire a vedere il nostro mare. Però è capitato, e come sta capitando spesso, che gli albergatori non mettano a disposizione per i loro ospiti stanze per weekend, per pochi giorni. Quindi, se parliamo di crisi, è possibile, come avete detto in studio, che qualcuno non si possa permettere neanche una settimana di vacanza. Certo. E questo lo giustificherei nel periodo di agosto. Però avviene anche nel periodo di giugno, nel periodo di luglio. A me è capitato in un albergo qui vicino sulla costa pugliese cercare per una famiglia un appartamento. Addirittura ho cercato di far capire che gli ospiti venivano dall'estero, dal Canada, per 2 giorni, per 3 giorni, ma ciononostante mi è stato detto che l'albergatore preferiva piazzare la sua stanza per una settimana, addirittura anche parliamo di 22 giugno. Magari anche i suoi amici canadesi avrebbero preferito farci una vacanza più lunga, e quest'anno avrebbero avuto il tempo. E sono rimasto stupito soprattutto perché ho chiesto informazioni con largo anticipo intorno all'inizio del mese di giugno, e addirittura mi è stato detto che possibilità e certezze di avere la stanza 3 giorni non c'era, e avrei avuto la certezza pochi giorni prima. Ma quindi, tutto questo, Marco, adesso, a parte il fatto che magari chiaramente si preferisce prendere una prenotazione che duri un po' più nel tempo, ma la motivazione per cui non vogliono prenotazioni di così breve periodo è perché comunque erano già pieni e per cui non ci stavano dentro, o per che cosa? Cioè non le hanno dato? No. Era una politica, era una loro aspettativa. Infatti non erano piene le stanze, avevano camere a disposizione, quello che mi ha lasciato stupito. Marco, io la ringrazio, faremo commentare il suo caso ai nostri ospiti. 800 24 00 24, continuate pure a dirci la vostra. Io poi ve ne racconto anche un'altra di un mio amico, anzi il mio insegnante d'inglese, si chiama Tim, lo saluto anche, che per andare una sera a Verona a vedere all'Arena uno spettacolo appunto di quelli di questo periodo ha rinunciato perché perché il costo dell'albergo era per lui assolutamente proibitivo, per cui anche noi, se davvero non ci mettiamo un po' del nostro ad essere un po' più accondiscendenti anche in termini di prezzi, però ripeto, non diamo adesso addosso all'albergatore che magari ha anche i suoi problemi quest'anno, per cui forse più di lì non possono andare, non possono abbassare più di tanto. Le ragioni ce l'hanno tutti in questo frangente così delicato, come lo definiamo spesso. Allora, Carlo Pileri, presidente dell'ADOC, la volevo far commentare quanto ci ha raccontato l'ascoltatore di Bari. Le risulta che gli albergatori prenotazioni per un numero di giorni inferiori a 3 non ne prendano, soprattutto in un periodo come questo? Ma ci possiamo permettere anche questo adesso? Ma ci risulta tutto, cioè, non ce ne ridiamo più. Insomma, magari ci stupiamo. Non avevamo avuto fino adesso questo tipo di segnalazioni. Infatti comunque un comportamento diffuso non credo che sia. Ma io appunto non mi era capitato di sentirlo, però ripeto, non mi meraviglio più di nulla in un settore, quello del turismo, dove continuiamo a perdere competitività come paese, continuiamo ad avere i prezzi più alti dell'Europa mediterranea. Continuiamo a avere lamentele degli albergatori che ci dicono che, quando sentiamo le interviste, che purtroppo non riescono a riempire i loro alberghi, e poi sentiamo anche queste cose qui. Cioè, non mi sembra che si voglia far nulla per far uscire il paese, il settore del turismo, da un tunnel in cui si è infilato e dove ogni singolo operatore pensa di guadagnarci il più possibile a danno anche degli altri, a danno dei consumatori, a danno dell'economia del paese. Abbiamo visto recentemente le truffe dei ristoratori romani, sentiamo purtroppo continuamente, l'abbiamo aperto come passerà l'estate del 2009 come l'estate dei turisti giapponesi gabbati. Mi ha chiamato questa mattina l'ambasciata giapponese. Racconti. Ci ha chiamato, l'ha detto stampa, ci ha detto che è disponibile l'ambasciatore ad un incontro per discutere insieme a noi forme di tutela dei turisti giapponesi. Per noi, che non siamo un'associazione dei consumatori, siamo scioccati e dispiaciuti che possa esserci un cambio di tendenza da parte dei giapponesi che amano il nostro paese perché si riconoscono nella nostra arte, nella nostra cultura, e che devono scegliere altre mete perché ci sono delle persone disoneste che non sanno accoglierli degnamente. No, ma che poi anche lì tutta quella famosa storia del ristorante, del passetto di Roma con i 100 euro. Mi è capitato a me in un bar un cono gelato a dei turisti giapponesi, è stato fatto pagare 13 euro, insomma, e l'ho visto io, l'ho sentito io, quindi è una cosa purtroppo... E lei che cosa ha fatto, Presidente? Lei non sa chi sono io, sono il Presidente dell'Associazione dei Consumatori, ma che diavolo state facendo? No, tra l'altro... Però è diffuso con i tassisti, eccetera. Credo che dovrebbe esserci un impegno diverso da parte dei nostri sindaci. Io ricordo un episodio a Praga, i tassisti di Praga, quando arrivano i turisti giapponesi, i turisti italiani, giapponesi, americani, fanno dei prezzi più alti, non rispettando il tassametro. Un giorno il sindaco di Praga... Tocca anche a noi, ci sta dicendo, altro. Esatto. Il sindaco di Praga si è mascherato da italiano e dice: come si fa a mascherare da italiano? Si è messo gli occhiali da sole, un vestito valentino, parlava malissimo l'inglese. Si è reso riconoscibilissimo, abbiamo capito. Com'è andata a finire? E se n'è andato in giro prendendo i taxi, facendo finta di essere italiano. Tutti quelli che lo imbrogliavano, chiamava la polizia municipale e gli faceva togliere la licenza. Ecco, io credo che a Roma, a Firenze, a Milano, a Napoli, a Bari, i nostri sindaci dovrebbero fare la stessa cosa, togliere le licenze a quei bar, a quei ristoranti, a quei tassisti che non rispettano i turisti. Sì, adesso la vedo un po' divertente che Alemanno si vesta da giapponese, però voglio dire, potrebbe essere un'idea, potrebbe mandarci qualcun altro. Detto questo, poi tra l'altro veramente i giapponesi ci spendono già tanto da noi, per cui è comunque una brutta figura quella che abbiamo fatto. Detto questo, comunque tornando al nostro filone turistico che abbiamo intrapreso all'inizio, il tema è che per questo turismo in crisi, quello italiano, potrebbe anche essere paradossalmente l'anno del riscatto, visto che a causa dei problemi economici di molte famiglie, molti stanno rinunciando magari a destinazioni più lunghe. Teniamoli in Italia, cerchiamo di favorire loro al meglio tutte le condizioni per poter rimanere nel nostro paese e goderne pienamente. Vi faccio sentire però anche Alessandro da Rimini, che è un albergatore. Siccome questa faccenda degli albergatori che non vogliono prenotazioni per giorni inferiori al numero 3, Alessandro, mi chiedevo se a Rimini voi praticate la stessa cosa. Assolutamente no. Cioè, figuriamoci con questi chiari di luna se possiamo mai permetterci di fare dei discorsi del genere. Specialmente perché purtroppo in questa fase economica, che c'è stato un calo, abbiamo un problema che il fine settimana noi abbiamo camere abbastanza, abbiamo abbastanza camere. Ecco, mentre invece durante la settimana c'è stato questo calo che è veramente inaspettato, che noi di solito a luglio siamo sempre sempre pieni, almeno la settimana piena te la fanno sempre. Invece purtroppo quest'anno capita che la gente ti fa il weekend. Il weekend e poi qualcuno, poi c'è una riduzione di un 20%, un 15-20% rispetto agli altri anni. Certo, e lei anche come sta zone come le nostre, ecco, che sono molto, molto pieni di hotel, anche perché siamo strutturati per avere un certo numero di turisti. In questa fase siamo quelli che soffriamo di più. Probabilmente giù al sud la questione è un po' diversa. Però noi da queste parti qua abbiamo gli hotel in prima fila che questo inverno, gli hotel di prima fila, intendo quelli i 4 e i 5 stelle, hanno fatto dei prezzi da 3 stelle questo inverno. Certo. Perché lo hanno fatto? Perché a costo di pagare le spese fisse hanno sceso i prezzi, perché non riuscivano a mantenere. E qui adesso devo essere sincero, c'è stato un leggero miglioramento, però la questione è anche dipesa dal fatto che è estate, quindi è normale che, certo, perché... che ci sia stato. Però l'anno scorso abbiamo lavorato in maniera abbastanza siamo stati molto legati alle fiere, però per il resto insomma abbiamo fatto molta fatica. Alessandro, mi scusi, agosto come le si prospetta? Agosto noi abbiamo avuto una bella situazione, ma se ne è parlato anche a livello nazionale per quanto riguarda la prima settimana di luglio, che c'è stata la Notte Rosa. Sì. Come si sa, la Notte Rosa è come un capodanno alla fine, quindi sì, molte città si stanno attrezzando con iniziative di questo tipo. Sì. Però insomma il tema è che anche un po' il pubblico deve fare il suo, no? Il settore pubblico darvi una mano, magari proprio con delle iniziative di questo genere, e quindi richiamare un po' la gente del comprensorio. Sì, perché sennò altrimenti non si riesce, anche perché nel frattempo l'altra costa adriatica non è ferma. Se parliamo della ex Jugoslavia, lì stanno andando alla grande con nuove strutture. E infatti la Croazia sta investendo molto, per esempio. Sulla falsa riga nostra stanno andando anche loro. Stanno andando. Alessandro, io devo salutarla perché ho altri ascoltatori, però abbiamo insomma colto perfettamente la sua considerazione. Insomma, abbiamo capito che l'albergatore di Bari si poteva permettere di rinunciare a questi turisti, evidentemente. Volevo sentire ancora Carlo Pessot di volagratis.it, perché sennò penserà che l'ho chiamato solamente per aiutarmi a risolvere la rogna di Maier questa mattina, ma non è così. Io vorrei anche chiederle che tipologia di domanda avete soddisfatto tramite i vostri siti, che sono tanti: bravo fly.viaggiare.it, tragitti più brevi, durate più brevi, che destinazioni hanno scelto i turisti che passano attraverso di voi? Ma guardi, quest'anno abbiamo fatto un'analisi un po' delle partenze tra luglio e agosto e abbiamo visto che mediamente la gente sta prenotando, i clienti stanno prenotando con un mese e mezzo di anticipo. Di solito lo facevano molto prima? Scusi? Di solito prenotavano molto prima, anche questo è un cambiamento di tendenza? No, su questo diciamo che c'è abbastanza, abbastanza stabile. Sì. Sì. Quello che si è accorciato è il periodo di permanenza, come è stato già detto prima, si concentra su una settimana, le due settimane sono meno della metà della percentuale di quelli che preferiscono la settimana. Comunque nella media generale una decina di giorni di vacanza, ecco, non tanto di più. Dove? Ma abbiamo visto che ci sono molto, allora, sui pacchetti vacanze c'è molto, si vende molto bene il mare Italia e l'Egitto, il Mar Rosso, per cui prevalentemente destinazioni non a lungo raggio. Noi ad esempio chiedeva dei consigli prima, abbiamo delle offerte su Ibiza 499 ancora ad agosto, per cui ci sono sicuramente delle possibilità di andare in vacanza ancora. Quando mediamente per esempio Ibiza ad agosto quanto può arrivare a costare? Ma 700-800 euro. Quindi quasi il doppio. Sì. Ma la cosa interessante ad esempio è vedere sulle destinazioni, l'anno scorso rispetto a quest'anno, le destinazioni più gettonate in Italia, che sono Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Olbia, diciamo le città del sud prevalentemente, sono tutte scese di prezzo medio a tratta. Faccio degli esempi: mediamente di 10 euro, insomma, Catania da 116 a 101, Palermo a 112 a 96, e insomma, Olbia a 107 a 97. Con un pochino di pazienza si può riuscire a ricavare la vacanza anche assolutamente serena per quest'anno, anche con un budget un po' più ristretto. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Carlo Pileri, Carlo Pessot di volagratis.it. Ho però 30 secondi di tempo e non riesco a a sentire Stefania da Brescia, che voleva raccontarci che va a Creta in vacanza una settimana. Il tour operator le dà delle tessere e appunti che però non può utilizzare in alta stagione dal 1 al 23 agosto. Stefania, questa è una prassi abbastanza nota, magari se la vuole contestare ci scriva, la faremo analizzare alle nostre associazioni dei consumatori. Montebelli, Touring Club italiano, 10 secondi, una bella destinazione italiana di quest'anno ad un prezzo ragionevole. Ci dà un consiglio al volo? Ma guardi, potrebbe essere la costa toscana del sud. Benissimo, grazie molte. Allora anche a Matteo Montebelli del Touring Club italiano. Salva Danaio ringrazia Gaia Romani e Alessandro Lungoni per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè in assistenza tecnica. Torniamo domani con gli ETF per accontentare gli ascoltatori che ci chiedono anche di parlare di questi prodotti di investimento. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.